Crew è un progetto che è nato nel giugno scorso tra le mura di XM24, quando quattro realtà che lavorano nel quartiere, quattro realtà che si occupano di fumetto, illustrazione, videomaking, hanno deciso in qualche modo di raccontare delle storie, di realizzare una mappa interattiva che raccontasse delle storie dalla Bolognina. È nata XM24 perché, insomma, nel momento in cui si è iniziato a parlare dello sgombero, noi abbiamo avvertito in qualche modo l'esigenza di provare a raccontare storie che uscissero un po', insomma, dal discorso mainstream, dalle dicotomie con cui si raccontava questo quartiere, provare a prendere altri punti di vista dal macro, quindi si tratta anche di storie che raccontano per esempio la pianificazione, le trasformazioni urbane della zona, al micro, cioè a provare a raccontare il quotidiano anche degli abitanti della Bolognina. Tu hai detto sono quattro i soggetti, le realtà che danno vita a questo progetto, allora raccontiamoli, diciamo chi sono. Allora, queste quattro realtà sono Graphic News, che è un portale di giornalismo a fumetti, Checkpoint Charlie, che è un centro di produzione artistica in cui appunto troviamo da disegnatori a scultori a artisti, insomma, di ogni genere, SMK Video Factory, che è una casa di produzione di documentari e videomaking, a Fronte Meccanico Nascosto, che è un altro centro di produzione artistica che è sempre qua in Bolognina. Avete deciso di utilizzare come strumento quello della mappa? Sì, la mappa, una mappa interattiva, secondo noi un modo per creare una cornice in cui si potessero accostare storie e linguaggi che molto eterogenei fra loro, che trovassero appunto in questa cornice alla loro giustificazione anche di stare insieme. È anche un modo, secondo noi, di creare un progetto, insomma, che possa andare un po' avanti nel tempo e provare a essere la base per una rete, cioè trovare magari non solo altre storie, ma anche altri soggetti che le vogliono raccontare. Un modo, insomma, per aprirci e coinvolgere in una narrazione collettiva e autonoma e in qualche modo anche alternativa del quartiere. Quindi attraverso questa mappa si accederà a diversi linguaggi, no? Grafici ma anche sonori. Sì, abbiamo, attraverso questa mappa troveremo contenuti che saranno dei fumetti animati, dei video, delle foto, delle illustrazioni, degli audio, e, insomma, è un work in progress, quindi noi in realtà usciremo il 1 ottobre con la prima versione della mappa, in cui ci saranno i primi contenuti, e poi si conta di proseguire andando a pubblicare via via degli aggiornamenti. GRU è l'acronimo di Grafia Urbana in Bolognina, ma il nome gioca anche su uno degli elementi che si sono visti più spesso in Bolognina negli ultimi anni, la questione appunto delle costruzioni, dell'urbanistica che insiste all'interno di quel quartiere. Il progetto nasce fra le mura di XM24, nasce anche appunto attorno a quello che era diventato un po' l'oggetto di tutti i problemi della Bolognina, quando in realtà noi da quelle mura vedevamo davanti a noi l'incompiuto della trilogia Nabile, quindi la testimonianza di una trasformazione urbana che attualmente è un fallimento e di cui appunto noi vorremmo provare a raccontare. Quindi le GRU in qualche modo sono questo elemento che noi prendiamo anche come riferimento, ma in qualche modo vogliamo anche trasformare. In qualche modo le nostre GRU non sono GRU della speculazione edilizia. Abbiamo preso questo elemento della GRU, che è nel panorama urbano, rappresenta uno di quelli che sono i punti centrali della mappa che stiamo andando a realizzare, ovvero le trasformazioni urbane in tutti i sensi, quindi anche sicuramente quelle che sono le scelte politiche ed economiche che riguardano il futuro di un quartiere. Nella Bolognina è un po' al centro della pianificazione urbana di Bologna da 30 anni almeno. Attualmente crediamo che non si possa parlare di questo quartiere senza parlare di questo aspetto qua, non incentrandosi, anzi cercando di evitare quello che sono poi gli unici due modi in cui solitamente si racconta il quartiere, ovvero il degrado, non degrado, o ultimamente anche XM, non XM. Ecco. Tu hai già anticipato una data prima, il 1 ottobre, ci sarà una presentazione. Sì, ci sarà una presentazione un po' particolare. Abbiamo deciso di pubblicare questa mappa e presentarla attraverso un concerto di musica classica, che è eseguito dall'ensemble Concordanze, che è un'orchestra progettita che nasce 10 anni fa durante il movimento studentesco dell'Onda. Questo concerto lo faremo nel parco davanti alla trilogia Nabile, un po' per, in maniera ironica, per celebrare la grande incompiuta della Bolognina. Dopo il concerto presenteremo brevemente il progetto e i primi contenuti che stiamo andando a pubblicare.